Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo ritornati noi di 451 intersezioni, appuntamento ormai consueto del lunedì sera, sempre dalle 20 alle 21, e noi continuiamo il nostro percorso di 451 intersezioni questa serata piuttosto grigia e uggiosa, almeno stasera, e oltretutto bloccati anche nel marasma del traffico bolognese sempre più allucinante, e partiamo con una trasmissione che vuole essere una sorta di evocazione a dimensioni sensoriali, a dimensioni estatiche. Il nome del programma di stasera, il titolo è Risonanze Statiche, una sorta di percorso sonoro che può rimandare a degli echi, a delle amplificazioni che possono rimandare appunto alla sensazione dell'estasi, dell'incanto. E in questo senso è la puntata di stasera, che partirà e attraverserà anche luoghi e dimensioni anche molto distanti fra loro. Attraverseremo un jazz improvvisativo e anche allucinogeno per poi passare nelle terre dell'elettronica più aperta a dimensioni estatiche e sognanti, con la formazione che proprio aprirà la puntata di stasera, per attraversare anche universi invece più legati alla contemporanea e alla sperimentazione sonora, che può rimandare appunto a degli echi, a dei rimandi di un'estasi non pienamente colta, non pienamente vissuta, ma appunto riverberata da lontano, delle piccole particelle di estasi che potremmo giocare anche su questo gioco di parole tra particelle, pastiglie ed estasi come sensazione umana, emotiva e forse anche oltre alla dimensione prettamente razionale. Partiamo subito con una formazione piuttosto conosciuta, almeno nell'ambito dell'elettronica sperimentale, ma anche con colorature più facili all'ascolto, anche se l'elaborazione tematica e compositiva è piuttosto complessa. Parliamo dei Boards of Canada, formazione, una delle formazioni di punta della Warp Records negli anni 90 e negli anni 0. Negli ultimi anni ha sviluppato pochi progetti, pochi dischi come Boards of Canada. L'ultimo, uscito nel 2013, Tomorrow's Harvest, in cui c'è oltretutto anche un paio di video estremamente belli nel disco originale, uscito sempre per la Warp. I Boards of Canada rappresentano pienamente questa sorta di risonanza, di eco, di un'estasi possibile, e che forse molta parte dell'umanità ha un po' dimenticato, e forse i ricordi più forti che possono rimandare a questa dimensione statica e orgiastica effettivamente sono gli happening degli anni 60-70, dove la liberazione totale degli individui portava a dimensioni effettivamente estatiche. Oggi si usano più qualche pastiglia, qualcos'altro per andare in estasi o qualcosa di simile. Dunque partiamo con Boards of Canada, con Tomorrow's Harvest, il brano diciamo di punta, quello più conosciuto, in cui è uscito anche il video e lo potete trovare tranquillamente su internet, e apriamo così il nostro percorso di stasera su Risonanze Estatiche. Buon ascolto. splendido brano questo di Boards of Canada, in questo disco che sicuramente non dice nulla di particolarmente nuovo rispetto ai vecchi lavori di Boards of Canada. I più belli sicuramente sono stati i primi album degli anni 90, fine anni 90, inizio anni 0. Questo disco però, almeno soprattutto in questo brano, ma anche nel brano che sentiamo in sottofondo, recupera tutta l'atmosfera, tutta la genialità e la sperimentazione riportata anche a un approccio più diretto, più facile all'ascolto, tipica dei Boards of Canada. Forse c'è meno l'aspetto giocoso che caratterizzava i primi album, queste voci registrate di bambini di dimensioni appunto molto gioiose, giocose, però rimane comunque l'aspetto di ricerca sonoro sull'elettronica e la ricerca appunto verso queste dimensioni sognanti e tendenti appunto a una dimensione che ricorda un eco molto lontano, riverberato di un'estasi possibile. Da Boards of Canada ci spostiamo nettamente, in maniera abbastanza radicale, dentro un duo che negli ultimi anni spesso ha lavorato insieme: Christian Fennez, sperimentatore elettroacustico ed elettronico sulla scena musicale della sperimentazione dell'elettronica e dell'elettroacustica dagli anni 90, insieme invece a un mostro sacro che ha caratterizzato già dagli anni 70, 80, 90 una parte importante della musica, anche pop, poi spostandosi sempre di più verso la sperimentazione, un grande nome conosciuto anche tra i non addetti ai lavori e ai non appassionati, cioè Ryuichi Sakamoto, che insieme a Christian Fennez realizzano questo album, che è un album mini di 19 minuti, una registrazione all'Auditorium Parco della Musica a Roma, al Festival di Roma del novembre del 2004, il disco uscito ovviamente nel 2005, l'album è Sala Santa Cecilia, dove i due lavorano sul piano prettamente, quasi prettamente elettronico, sia Sakamoto che Fennez. Sakamoto si concentra ovviamente nella dimensione estatica di un organo antico che viene poi trattato da lui stesso e da Fennez dentro una sorta di vero e proprio flusso dronico che porta verso una dimensione sicuramente estatica. Andiamocela a sentire, dunque, un estratto chiaramente dell'intero flusso sonoro registrato a Roma nel 2004, disco uscito per la Touch nel 2005. Splendido album, seppur molto breve, di Fennez, Sakamoto, Sala Santa Cecilia. E siamo rientrati in diretta, abbiamo mixato due dimensioni piuttosto differenti fra loro, in particolare il brano, un frammento da Sala Santa Cecilia tra Christian Fennez e Ryuichi Sakamoto, registrazione del 2004, album del 2005, dentro questa estasi da flusso di Sakamoto e Fennez. Siamo passati invece a una dimensione di fuga, di abbandono verso l'estasi da parte di un personaggio che anche la scorsa puntata è stato presente qui a 451 intersezioni, non ovviamente di persona ma chiaramente a livello di album, con la trasmissione speciale che è stata fatta su Los Angeles Free Music Society, di cui lui è stato uno dei fondatori principali, questo movimento collettivo sperimentatore degli anni 70 che è continuato ad andare avanti anche negli anni 80-90, è ancora tuttora presente, ma ovviamente un po' svuotato di progetti, di delirio improvvisativo, di happening e di performance. Ma Tom Recchio l'abbiamo ascoltato con questo brano splendido che ricorda anche sonorità e armonie e anche orchestrazioni latinoamericane, con questo richiamo quasi verso un passato, con questo nastro che è stato riutilizzato da Tom Recchio e poi manipolato, un vecchio vinile che poi è stato anche ovviamente artefatto digitalmente per creare questa atmosfera unica, un suono anche piuttosto sporco, lontano, molto lontano, riverberato dentro proprio l'idea di stasera, di questi echi, di queste risonanze estatiche. E dal grande, che io amo particolarmente, il grande Tom Recchio, che sentiamo ancora in sottofondo con questo brano splendido, andiamo ancora a tuffarci dentro un altro tipo di dimensione estatica e un altro eco distante, attraverso invece una manipolazione costruita su sax, vari sax che vengono utilizzati da questo straordinario musicista. Si tratta di Colin Stenson, musicista californiano che poi si è spostato a New York per portare avanti le sue sperimentazioni, ha lavorato con grandi musicisti che sono passati attraverso 451 intersezioni e 451 frammenti sonori, in particolare Mats Gustafsson, un grande sassofonista anch'egli e sperimentatore da parecchi anni dentro, diciamo, l'universo dell'improvvisazione radicale. In questo caso invece l'album che andiamo a ascoltare, l'ultimo album uscito di Colin Stenson nel 2013 per la Constellation, è New History Warfare Volume 3, To See More Light. Questo è l'album, abbiamo estratto un brano splendido dove il grande Stenson si lancia verso questa sorta di flusso ipnotico e ripetitivo con fraseggi di sax che ricordano anche molto la scena minimalista, con appunto un'idea ipnotica, lisergica ma anche estatica. Un altro approccio, differente sicuramente da questi ultimi due brani che abbiamo mixato, ma dentro quest'idea di stasera. Colin Stenson, andiamocelo a sentire da New History Warfare Volume 3. Buon ascolto. Thank you. siamo ritornati in diretta. Fantastico veramente questo flusso ipnotico estremamente energico del grande Colin Stenson, e ci avviamo velocemente a presentare il prossimo autore, perché il tempo come al solito c'è tiranno, e parliamo di un autore tra i più importanti della scena sperimentale elettroacustica ed elettronica americana, il grande Keith Fullerton Whitman, musicista che ha lavorato con moltissimi autori tra i più importanti, soprattutto nell'ambito del minimalismo, come Tony Conrad, ma i nomi insomma qua si contano a bizzeffe, Rhys Chatham, Charlemagne Palestine, Terry Riley, ma anche con musicisti della scena elettronica anche più pop come i Matmos e altri musicisti invece che si muovono su un territorio più ambientale e di flusso come il grande Oren Ambarchi. Dunque musicista che si è mosso sempre sulla sperimentazione fin dagli anni 90, continuando a sperimentare tra elettroacustica, elettronica, musica contemporanea e sperimentazione più ardite, arrivando a questo disco che andiamo a presentare ora. Ascolteremo un frammento, Lisbon, uscito nel 2000 e 6 per l'etichetta Cranky, ed è sicuramente un ottimo lavoro, un'unica traccia, un flusso assolutamente ipnotico ed estatico, un'elettronica poi assolutamente particolare che ricorda anche in parte alcune dimensioni glitch degli anni 90, ma con una coloritura assolutamente nuova. Ce l'andiamo subito ad ascoltare perché il tempo è poco, e poi ci ritroveremo per i saluti. Keith Fullerton Whitman. E ormai siamo arrivati verso la fine, abbiamo dovuto, causa tempo, sfumare questo splendido lavoro, Lisbon, di Kay Fullerton Whitman, e velocissimamente, perché ormai manca pochissimo alla fine, andiamo a presentare l'ultimo lavoro di questa sera di Risonanza Statica 451 Intersezioni, un nome un po' impronunciabile, formazione finlandese della scena elettronica sperimentale con fortissimi echi anche cosmici e anche rumoristi dentro i lavori di questa formazione. Tuso Annunskat è il nome, il finlandese è una lingua abbastanza allucinante, sembra uno scherzo per noi italiani, in realtà è una lingua molto complessa, e l'album è uscito nel 2011, è Naksa Na Mun Kinelet, numero, devo dire, un titolo abbastanza complesso, sono riuscito a dirlo decentemente. Vi lascio con quest'ultimo brano e quest'ultima formazione, vi aspetto lunedì prossimo sempre dalle 20 alle 21 sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Buon ascolto.